abbiamo deciso di entrare in sciopero dopo che questo lunedì il nostro editore, al termine di un percorso che ci ha visto fare grandi sacrifici con un contratto di solidarietà per la durata di 2 anni, ha deciso di avviare una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 15 giornalisti e 13 grafici, quindi stiamo parlando di un terzo della forza lavoro dell'agenzia. Quindi per chiedere all'editore un piano industriale ed editoriale di rilancio e non soltanto una prospettiva di tagli, abbiamo deciso di aprire immediatamente lo stato di agitazione sindacale, scendere subito in sciopero e approvare già un pacchetto di scioperi da effettuare durante questa trattativa sindacale che durerà 45 giorni. Non c'è ancora un piano di rilancio? No, piani di rilancio non se ne vedono, si vedono soltanto piani di tagli, nonostante siamo veramente a 15 giorni dalla presentazione delle domande per il nuovo bando di Palazzo Chigi per le agenzie stampa, che è stato un bando costruito appositamente per tutelare l'occupazione, che prevede delle premialità per le agenzie che hanno contratti giornalisti con contratti regolari di articolo 1, e quindi diciamo è una mossa che ci sembra anche insensata, perché andiamo a ridurre anche le possibilità della nostra agenzia, che è una realtà che ha oltre 30 anni, di accedere a questi finanziamenti e quindi di dare il suo contributo. Ecco, in un comunicato voi sottolineate che appunto i contratti di solidarietà, quindi la rinuncia parte anche del compenso da parte dei giornalisti, è stato uno sforzo che in teoria doveva scongiurare i licenziamenti. Sì, esatto, abbiamo per 2 anni abbiamo rinunciato a parte del nostro stipendio, a parte delle nostre giornate lavorative, per seguire un percorso di risanamento che ci potesse portare a un certo punto ad una situazione di stabilità e di equilibrio. Purtroppo non si sono viste queste iniziative di rilancio da parte dell'azienda, se non diciamo delle piccole operazioni di risparmio, ma un rilancio industriale non c'è mai stato, e adesso siamo qui, sono a pagarne le conseguenze, sono i lavoratori. Tu dicevi un pacchetto di ore di sciopero di 40 ore, quindi insomma voi siete intenzionati a continuare questa lotta? Sì, certamente noi siamo assolutamente saldi nel chiedere all'azienda il ritiro del piano di licenziamenti, siamo convinti si possano trovare delle soluzioni alla situazione di dissesto economico della nostra azienda, ma pretendiamo anche un impegno per un rilancio industriale ed editoriale del nostro lavoro.